Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrer. Traduzione di Francesco Bergamasco. Tania si sveglia e l'inferno ricomincia. Lei vuole uscire, lui non vuole che esca. Allora litigano, bevono, vengono alle mani. Quando ha bevuto, Tania diventa cattiva. E siccome è stato Edoardo a chiederle di dirgli tutta la verità, di non nascondergli nulla, ebbene, allora lei non gli nasconderà nulla e gli dirà tutto quello che lo farà soffrire di più. Per esempio che Jean-Pierre l'ha iniziata al sadomasochismo, che si legano a vicenda, che Jean-Pierre le ha comprato un collare chiodato simile al collare di un cane e un fallo di gomma come il loro, ma ancora più grosso, che lei gli mette in culo. Questo particolare, il fallo di gomma che lei, Tania, mette in culo a Jean-Pierre, fa perdere la testa a Edouard, che scaraventa Tania sul letto e inizia a stringerle il collo. Sente le fragili vertebre di lei sotto le sue mani forti e nervose. All'inizio Tania ride, lo sfida, poi il suo volto comincia a diventare rosso. La sua espressione passa dalla sfida all'incredulità, poi dall'incredulità al puro terrore. Tania comincia a inarcarsi, a scalciare, ma lui la schiaccia con tutto il suo peso e vede negli occhi di Tania che lei ha capito ciò che sta per accaderle. Edouard stringe, stringe ancora, le nocche delle sue mani sul collo di Tania diventano bianche e lei si dibatte, cerca l'aria, vuole vivere. Il terrore e i sussulti del corpo di lei lo eccitano al punto da farlo eiaculare. E mentre il suo sesso si svuota con lunghe scosse, Edouard allenta la presa, apre le mani, le abbandona e si lascia cadere su di lei. Molto tempo dopo ne riparleranno. Tania gli dirà di essersi eccitata, ma di avere pensato che se lui ci avesse riprovato sarebbe andato fino in fondo. E per questo se n'è andata. Avevi ragione, ammetterà lui. Ci avrei riprovato e sarei andato fino in fondo. Un giorno, rincasando dopo aver fatto la spesa, Edouard trova gli armadi vuoti, ma non è sorpreso. Cerca qualche traccia di Tania nei cassetti, sotto il letto, nella spazzatura, e deposita ciò che ha trovato, una calza smagliata, un tampax, foto venute male fatte a pezzi, ai piedi della loro icona. Accende una candela. Se avesse una macchina fotografica, scatterebbe una foto a quelle reliquie. Resta seduto lì davanti un momento, come fanno i russi, per una breve preghiera prima di mettersi in viaggio. Poi esce. Lui che ricorda tutto, non ricorda nulla della settimana successiva. Deve aver vagato per le strade, essersi appostato sotto casa di Jean-Pierre, aver fatto a botte con lui o un altro, lo testimonia un occhio nero, e soprattutto deve aver bevuto fino a perdere coscienza. Zappoi totale, zappoi kamikaze, zappoi extraterrestre. Sa che Tania se n'è andata il 22 febbraio 1976 e che lui si è svegliato il 28 in una stanza dell'hotel Winslow, con il buon Leonia Casagora al capezzale. I primi giorni non esce dalla stanza e nemmeno dal letto. Troppo debole, troppo malconcio. E poi non saprebbe dove andare. Niente donna, niente lavoro, niente genitori, niente amici. La sua vita si è ridotta a quel perimetro. Quattro passi in lunghezza, tre in larghezza. Linoleum consunto, lenzuola cambiate ogni due settimane, odore di varecchina che cerca di sovrastare il piscio e il vomito, proprio quello che ci vuole per uno come lui. Finora ha sempre creduto nella sua buona stella, ha sempre pensato che la sua vita avventurosa lo avrebbe condotto da qualche parte, che il film avrebbe avuto un lieto fine. Lieto fine. Significa che in un modo o nell'altro sarebbe diventato famoso, che il mondo avrebbe saputo chi era o, nel peggiore dei casi, chi era stato Edouard Limonov. Ora che Tania se n'è andata non ci crede più. Crede che la sudicia stanza in cui si ritrova non sia una scena fra le altre, ma l'ultima, quella a cui portano tutte le precedenti, fine della corsa. Non resta che lasciarsi andare, bere il brodo di pollo che gli prepara il buon Leonia Casagor, dormire, sperare di non svegliarsi. L'hotel Winslow è un rifugio per i russi, soprattutto ebrei, che appartengono come lui alla terza emigrazione, quella degli anni 70. Edoardo è in grado di riconoscerli per strada, anche di spalle, dalla stanchezza e dalla infelicità che emanano. A loro pensava quando ha scritto l'articolo che gli ha fatto perdere il posto. A Mosca o a Leningrado erano poeti, pittori, musicisti, under di valore, che se ne stavano al caldo nelle cucine e ora, a New York, fanno i lavapiatti, gli imbianchini, i traslocatori e per quanto si affannino a credere ancora ciò che credevano all'inizio, che è una situazione provvisoria, che un giorno i loro veri talenti saranno riconosciuti, sanno bene che non è così. Allora, sempre tra loro e sempre in russo, si ubriacano, recriminano, parlano della patria, sognano di avere il permesso di ritornarvi, ma non avranno mai il permesso di ritornarvi e moriranno lì, in trappola e beffati dal destino. C'è un russo di quel genere al Winslow. Ogni volta che va a trovarlo per farsi un goccetto o scroccargli un dollaro, Edoardo ha l'impressione che ci sia un cane in camera sua, perché c'è puzza di cane, e che in qualche angolo ci siano degli ossi rosicchiati e persino merde di cane sul pavimento. E invece no, quello non ce l'ha un cane. Non ha nemmeno un cane, è solo da morire, e non fa altro che rileggere da mattina a sera le poche lettere ricevute dalla madre. Ce n'è un altro, che scrive a macchina tutto il santo giorno senza mai pubblicare nulla, e vive nel terrore che i vicini vogliano soffiargli la stanza. È inutile spiegargli che questa è una fissazione importata dall'URSS, dove anche la stanza più squallida è un bene prezioso, ed effettivamente c'è gente che può passare mesi e mesi a ordire piani contorti per rovinare i propri vicini e mettere le mani su 9 metri quadrati in cui stare stipati in 4. È inutile spiegargli che in America non funziona così, perché il russo ci tiene la sua fissazione. È l'ultimo legame con la lurida Kamunalka che, senza ammetterlo, rimpiange tanto di aver abbandonato. E poi c'è Lionia Kassagor, il buon Lionia Kassagor, che ha passato 10 anni alla Kalimà ed è orgoglioso di vedere il proprio nome scritto nero su bianco in arcipelago Gulag. Tutti, nell'ambiente degli esuli, lo chiamano il tizio di cui parla Solženicyn. E poiché 10 anni sono più di quelli che si è fatto Solženicyn, Lionia pensa che anche lui dovrebbe scrivere del Gulag e diventare ricco e famoso, ma naturalmente non lo fa. Da quando ha trovato Edouard sul marciapiede, quasi privo di sensi e mezzo morto dal freddo, non lo perde un attimo di vista. È la sua buona azione. Forse al suo altruismo non è estranea l'intima soddisfazione di vedere ridotto a mangiare la polvere il ragazzo arrogante che quando lo incrociava tirava dritto, per paura che lui, Lionia, portasse Iella. Forse sotto sotto è contento di introdurlo nella comunità dei losers, portandolo all'ufficio del welfare, il servizio di assistenza ai poveri che accorda a Edouard $278 al mese. La stanza meno cara di un albergo miserabile come il Winslow costa $200 al mese. Gliene restano 78, pochi, ma Edouard non ha voglia di cercarsi un lavoro. Gli sta bene ubriacarsi con bottiglie di vino californiano da mezzo gallone a 95 centesimi, frugare nei bidoni dell'immondizia dei ristoranti, scroccare un po' di denaro ai suoi connazionali, alla peggio arrangiarsi con qualche scippo. È una merda. Vivrà come una merda. Passa le giornate a camminare per le strade, senza meta, ma con una predilezione per i quartieri poveri e pericolosi, dove sa di non rischiare nulla perché lui stesso è povero e pericoloso. Si introduce nelle case abbandonate dalle imposte inchiodate, cinte da steccati coperti di muschio, dove trova sempre barboni che marciscono in pozzanghere d'urina. Gli piace parlare con loro, raramente in una lingua comune. Gli piace anche rifugiarsi nelle chiese. Un giorno, durante una funzione, conficca il proprio coltello nel legno di un inginocchiatoio e si diverte a farlo vibrare. I fedeli lo guardano con la coda dell'occhio, preoccupati, ma nessuno osa avvicinarsi. La sera ogni tanto si concede un cinema porno, più che per eccitarsi, per piangere piano, in silenzio, pensando al tempo in cui ci andava con la sua bellissima donna e la faceva godere, suscitando la gelosia dei relitti di cui ora fa parte. Dov'è Tania adesso? Non lo sa e ha rinunciato a saperlo. Dopo il colossale zappoi seguito alla sua partenza, non è più tornato dalle parti del loft dove forse Tania abita. Quando rientra in albergo si masturba pensando a lei. La cosa che gli fa più effetto non è tanto l'idea di lui, Edouard, che la scopa, quanto quella di lei che si fa scopare. E non da lui, ma da Jean-Pierre, o con un grosso fallo di gomma, dall'amichetta lesbica di Jean-Pierre. Per farlo ingelosire ulteriormente, Tania infatti gli ha descritto un rapporto a tre. Che cosa prova Tania quando si fa inculare e tradisce Limonov, suo marito? Per scoprirlo, Edouard si infila una candela nel culo. Alza le gambe, le allarga. Comincia ad ansimare e a gemere come Tania e a dire quello che Tania diceva a lui e che ora probabilmente dice ad altri. Sì, mi piace, è duro, lo sento, cose del genere. Quando viene, resta disteso con il ventre imbrattato di sperma. Non vale la pena asciugarsi con il fazzoletto. Le lenzuola sono comunque sporche. Prende un po' di sperma con la punta delle dita. Lo lecca. Lo manda giù con un po' di cattivo vino rosso, vince il voltastomaco, ricomincia da capo. La leggenda dice che il poeta Yesenin abbia scritto alcune poesie con il proprio sangue. La leggenda dirà che il poeta Limonov si ubriacava con la propria sborra. Molto più probabilmente, purtroppo, non ci saranno leggende. Nessuno saprà chi fosse il poeta Limonov, povero ragazzo russo perduto a Manhattan, compagno di sventura di Leonia Kassagor, di Edith Bruth, di Alyosha Shnyertson e di altri che moriranno come sono vissuti, ignorati da tutti. Gonfio di pietà per se stesso, guarda il proprio corpo. Bello, giovane, forte e di cui nessuno ha bisogno. Se lo vedessero solo e nudo nel letto, molte donne vorrebbero accarezzarlo e anche molti uomini. Dopo essere stato tradito da Tania, si è spesso ripetuto che è meglio avere la fica che il cazzo, essere preda anziché predatore, e che gli piacerebbe che qualcuno si occupasse di lui come di una donna. In fondo sarebbe bello essere frocio. A 33 anni Edouard sembra ancora un adolescente. Sa di piacere agli uomini, lo ha sempre saputo. Ligio al codice d'onore di Saltov, ha sempre risposto con lo scherno al loro desiderio. Ma ora se ne frega del codice d'onore di Saltov. Ha bisogno di essere protetto e coccolato. Tranne poi disprezzare quelli che lo proteggono e lo coccolano. Ha bisogno di essere Tania al posto di Tania. Edouard espone il suo problema a un frocio russo che gli presenta un frocio americano. Il frocio americano si chiama Raymond, 60 anni ben portati, raffinato, i capelli tinti e l'aria gentile. Il loro primo incontro avviene in un ristorante di classe. Raymond guarda Edouard, che divora il suo cocktail di gamberetti avocado, con il sorriso commosso del benefattore che offre un pasto caldo a un ragazzino povero. «Non mangiare così in fretta», gli dice accarezzandogli la mano. Edouard immagina quello che pensano i camerieri. Gli piace passare per ciò che ha deciso di essere, una troietta. La sola cosa che lo preoccupa è che anche il povero Raymond sembra cercare amore. Cercare cioè di riceverlo e non solo di darlo. Per come la vede Edouard, in amore c'è chi dà e chi riceve. E lui ritiene di aver già dato abbastanza. Dopo pranzo vanno a casa di Raymond. Si siedono sul divano, l'uno accanto all'altro, e da sopra i jeans Raymond comincia a palpargli l'uccello. «Vieni», si sente dire Edouard. L'americano lo prende per mano e lo porta in camera, sul letto. Mentre Raymond si dà da fare per slacciare la fibbia del pesante cinturone militare eredità di Beniamine e dell'Encavedè, Edouard, con gli occhi socchiusi, scuote la testa da destra a sinistra, come ha visto fare a Tania. Cerca di fare tutto come Tania, però non gli si rizza. Alla fine Raymond riesce a tirargli fuori dai jeans l'uccello raggrinzito, lo prende in mano, in bocca, con molta dolcezza e buona volontà, senza ottenere risultati. Entrambi un po' imbarazzati, si ricompongono e tornano in salotto a bere qualcosa. Quando Edouard se ne va, promettono di risentirsi, ma nessuno dei due ci crede. Non di rado, con la bella stagione, Edouard passa tutta la notte fuori. per strada, sulle panchine. Ora è nell'area riservata ai bambini di un giardino pubblico. Recinto di sabbia, altalene, scivolo. Ricorda una notte in un'area a giochi simile, solo un po' più malandata perché in Unione Sovietica tutto è più malandato, con Kostya, detto il gatto, che poi ha ucciso un uomo e si è beccato 12 anni di gulag. Dove sarà Kostya? È vivo o morto? Edouard gioca con la sabbia, passandosela da una mano nell'altra, quando vede brillare nell'ombra, ai piedi dello scivolo, due occhi che lo guardano. Non ha paura. È un pezzo ormai che non sa più cosa significhi aver paura. Si avvicina. È un ragazzo nero, raggomitolato, vestito di scuro, certamente fatto. «Hi», dice Edouard. «Io mi chiamo Ed. Hai da fumare?» «Fuck off», ringhia l'altro. Edouard non si offende e si accovaccia accanto a lui. Senza preavviso il nero gli salta addosso e lo colpisce. I due rotolano avvinghiati nella sabbia, lottano. Edouard riesce a liberare una mano, prende il coltello nascosto nello stivale e forse lo avrebbe usato se così, inaspettatamente come l'aveva aggredito, l'avversario non avesse lasciato la presa. Restano uno addosso all'altro, sulla sabbia umida, a riprendere fiato. «Ho voglia di te», dice Edouard. «Puoi fare l'amore?» Cominciano a baciarsi e ad accarezzarsi. Il giovane nero ha la pelle morbida e sotto gli abiti puzzolenti un corpo muscoloso, sodo, molto simile al suo. Anche lui scuote la testa con gli occhi socchiusi e mormora «Baby, baby». Edouard si china e gli sfila la cintura, impaziente di sapere se è vero quel che si dice del cazzo dei neri. È vero, è più grosso del suo. Lo prende in bocca. Si distende sulla sabbia, lui stesso ce l'ha durissimo, lo succhia a lungo, con grande calma, come se avessero l'eternità davanti a loro. Non c'è nulla di furtivo. È un momento sereno, intimo, maestoso. «Sono felice», pensa Edouard. «Ho una relazione». L'altro si abbandona completamente, fiducioso, lascia fare tutto a Edouard e intanto gli accarezza i capelli, mugola piano e alla fine viene. Edouard, che conosce già il sapore del proprio sperma, trova buonissimo quello del giovane nero e lo ingoia tutto. Poi appoggia la testa sul suo uccello svuotato e si mette a piangere. Piange a lungo, come se sfogasse tutta la sofferenza accumulata da quando se n'è andata Tania. Il giovane nero lo stringe fra le braccia e lo consola. «Baby, my baby, you are my baby», ripete come un incantesimo. «I am Eddie», dice Edouard. «I have nobody in my life. Will you love me?» «Yes, baby, yes», canticchia l'altro. «What is your name?» «Chris». Edouard si acquieta. Immagina la loro vita insieme nei bassi fondi. Faranno gli spacciatori. Abiteranno nelle case abbandonate e non si lasceranno mai. Dopo un po', Edouard si cala i pantaloni e lo slip. Offre il culo a Chris, come faceva Tania con lui, e gli dice «Fuck me». Chris si sputa sul cazzo e glielo infila. Anche se il cazzo è più grosso della candela, a Edouard l'allenamento è servito. Non sente troppo male. Quando Chris eiacula, cadono entrambi sulla sabbia e si addormentano così. Edouard si sveglia un po' prima dell'alba. Si libera dalla stretta del giovane nero che borbotta piano. Tasta in giro per ritrovare gli occhiali. Poi se ne va. Cammina attraverso la città che si sta svegliando pienamente felice e orgoglioso di se stesso. «Non ho avuto paura», pensa. «Mi sono fatto inculare». «Maladez», come avrebbe detto suo padre. Sì, proprio un bravo ragazzo. Elio De Capitani ha letto Limonov di Emmanuel Carrer, traduzione di Francesco Bergamasco, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Jonathan Zenti, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi,